gravi degli alberi di spina. Anche noi vogliamo un bel villaggio come quello degli uomini. Giove rispose che gli uomini lavoravano molto per mantenere bello il loro villaggio, mentre sugli alberi le scimmie potevano vivere senza preoccupazioni. Ma quelle esistevano. Siamo più simili agli uomini che agli uccelli, eppure gli uomini vivono in un bel villaggio e noi sugli alberi della foresta. Anche noi vogliamo vivere in un bel villaggio. Il padre degli dèi ascoltò la loro richiesta e fece costruire per le scimmie un villaggio proprio ai margini della foresta. Potrete vivere lì, disse Giove alle scimmie. Ma badate che se volete che il villaggio sia bello come quello degli uomini, dovrete anche lavorare come fanno gli uomini. Le scimmie si insediarono nel villaggio, ma disattendendo l'ammonimento di Giove, continuarono a vivere le scimmie, come avevano sempre vissuto, senza preoccupazioni. Così, con il tempo, il villaggio si riempì di erbacce. Nelle case cominciarono a crescere piante e arbusti, e alcuni divennero tanto alti da scoperchiare i denti. Poco a poco la foresta invase il villaggio malcurato e le scimmie si ritrovarono a vivere di nuovo sui rami degli alberi. Così è punita la stoltezza di chi non si prende cura delle proprie cose e si dimostra incapace di trarre profitto da una situazione vantaggiosa. Le scimmie chiedono un villaggio a Giove. È una favola di Fedro. Non è una delle più conosciute, ma probabilmente qualcuno di voi l'ha già sentita o letta, specialmente se ha studiato latino. Io l'ho studiato. È stata una delle prime versioni che ci hanno fatto tradurre. Ci facevano sempre tradurre brani poco conosciuti. Così non si trovavano le frasi fatte nel vocabolario di latino. Cari amici, cari concittadini, ci sono differenti ragioni. Scusate, è una cosa nuova per me, so che può sembrare strano, no, certo che sono abituato a parlare in pubblico, ma non a questo pubblico e non è a questo che mi riferisco. Per tutti gli anni in cui io sono stato il presidente di questo paese non ho fatto altro che parlare in pubblico. Proprio tanti. Però mai prima d'ora mi ero trovato a parlare davanti a questo tipo di pubblico, davanti a un pubblico come voi. No, non l'avevo mai fatto, è la prima volta, per cui prego di scusarmi. Cari amici, cari concittadini, innanzitutto voglio ringraziarvi per la disponibilità ad ascoltare quello che faccio da dirvi, anche se siete convenuti in questa sede di vostra iniziativa. Io so bene che la vostra disponibilità all'ascolto non andrebbe mai data per scontata. Vi ringrazio perciò per l'attenzione che mi presterete. Spero vivamente di saper ripagare questa vostra disponibilità facendo in modo che questo tempo che vi rubo non sia per voi noioso, per esempio. Naturalmente mi sono preparato un discorso per l'occasione, perché se il discorso non è così proprio a poco. C'è questo, preparato questo. È stato difficile decidere come iniziare, perché scegliere la prima parola è... Ma questa è proprio una delle ragioni per cui ho voluto cominciare proprio con una favola, iniziare con una citazione, no? Ti libera da una grande responsabilità che è poi quella di dover scegliere la prima parola, no? Perché non è una parola tua, stai solo leggendo ciò che qualcun altro ha scritto, cioè il pubblico ti sente quello che dici. In un certo senso non è colpa tua. La colpa è di qualcun altro. Un'altra delle ragioni più evidenti per cui ho voluto cominciare con quella favola è legata naturalmente alla morale che Fedro ci vuole trasmettere, che penso però sia chiara a tutti. E l'ultima ragione è proprio legata al fatto che quella è una favola, cioè un racconto fantastico, non è realtà, non è finzione. E questa è la ragione principale per la quale ho voluto iniziare così il mio discorso. Si tratta di finzione. reale del termine, no? La mia residenza è stata una favola, una finzione, un racconto fantastico. Sono stati inventati tanti racconti sul mio nome, tanti da farci un poema epico come quelli che ho studiato a scuola, se fossi vissuto ai tempi di Omero, probabilmente avrebbero scritto un lungo poema su di me, il cui titolo avrebbe incluso il mio nome, seguito dal suffisso Ia, oppure dal suffisso Ea, non ho fatto bene, non importa. Tanto oggi nessuno legge più lunghi poemi, ci sono brevi articoli con titoli a effetto che attirano rapidamente l'attenzione della gente, e il mio nome ha sempre attirato l'attenzione della gente, ha fatto vendere i giornali, aumentare lo share, convocare il pubblico nei salotti, nelle sale, nei cinema, nei teatri, sì, addirittura nei teatri. Il mio nome, chi l'avrebbe mai detto, il mio nome a teatro, una cosa disdicevole, eh? Questo è essenziale per capire in che modo il mio nome ha attirato per tutti questi anni l'attenzione della gente. La finzione è una costruzione della realtà, della realtà costruita in modo che possa interessare. Perché la reale realtà delle cose, così com'è, non è interessante. Perché la realtà, se non è passata attraverso il filtro della finzione, non interessa a nessuno. Per questo nella nostra cultura la finzione ha sempre avuto la priorità sulla realtà. Ipsit. Da Aristotele invece Erodoto, lo storico, preferiva Omero, il metastorico. Per anni il popolo ha pensato di essere informato su fatti che vedevano il presidente come protagonista. Informato, fatti, presidente, parole. La verità è che il popolo era intrattenuto da favole che avevano come protagonista un personaggio che portava il nome del presidente. C'è una differenza, no? Di termine. La differenza la fanno i nomi, soprattutto il mio nome. La differenza non la faccio io, ma il mio nome. Non una persona, ma un nome. È diverso, perché quando sei una persona pubblica, anche il tuo nome è di dominio pubblico. Cioè, non è più solo il tuo nome, è un nome di tutti, no? E in questi anni tutti hanno fatto con il mio nome quello che hanno voluto. Non posso fare a meno di pensare a quante sono le persone che almeno una volta nella loro vita hanno pronunciato il mio nome. Il nome del presidente. Milioni probabilmente, milioni di persone, e di tutte queste alcune migliaia forse sono quelle che mi hanno incontrato personalmente qualche volta, le sfuggita, esigue centinaia quelle con cui ho parlato almeno una volta, le questioni personali, qualche decina le persone che possono dire di avermi davvero conosciuto, poche, pochissime quelle che mi hanno amato, ancora meno quelle che mi hanno amato veramente. Eppure il mio nome era sulla bocca di tutti. Un nome pronunziato senza amore. Pensate al vostro nome, così tanto. Lo consigliate? Maria? Il cognome? Sì, così. Lupetti? Lucchetti, come quelli proprio per Lucchetti. Maria Lucchetti. Ecco, ora vorrei che tutte le persone presenti mormorassero ripetutamente questo nome sottovoce. Cioè, no, lo so che sto chiedendo qualcosa di inusuale, ma d'altra parte la situazione è inusuale. Cioè, lo so, non siete tenuti a farlo. Mi si chiama Maria Lucchetti. Per favore, mormorate sottovoce, non Maria Lucchetti. Pensi che nessuno di quelli che sta pronunciando il suo nome la conosce. No, se sembra quasi che non sia il suo nome, un po' più forte. Grazie. Nessuno si pronuncia questo nome, non viene più perde qualcosa. Maria Lucchetti, Maria Lucchetti, poco a poco, smette di essere un nome, Maria Lucchetti, una parola, deve e diventa un suono, ma poco a poco sono smariante, senza denotazione, c'è cioè un suono. Se avessi un'alta considerazione di me stesso e delle mie capacità, non avrei certo certo avuto alcuna remora, ma circondarmi durante la mia presidenza di collaboratori intelligenti ed estremamente capaci. In quel caso non avrei certo sfigurato io in mezzo a loro, io intelligente fra gli intelligenti. In quel caso. Ma non l'ho fatto. Perché non sono una persona egocentrica. Sono umile come mi hanno insegnato ad essere. Per questo ho sempre avuto un certo pudore a comparire in mezzo a persone intelligenti e capaci. In televisione ce ne avevo sempre solo. Messaggi in video alla nazione solo. Fronti collettivi, dibattiti pubblici. Cosa male. Meeting internazionali speravo sempre che in altri paesi non andassero un mediocre, ambasciatore di rappresentanza, un sottosegretario col senso dell'umorismo, un ministro un po' cazzone. Oppure il presidente americano Bush per sistemarsi subito, anche loro fare una discreta, insomma, cercavo di buttarla sul ridere, ognuno sfrutta le sue capacità, perché anche se non sarò una persona particolarmente intelligente e capace, brillante, sì, che lo sono, sono sempre in qualsiasi situazione, brillante tra persone brillanti, primus inter pares. Eh no, cioè questo potevo essere e questo volevo essere. Non sarebbe stata proprio una buona idea quella di circondarmi di persone intelligenti e capaci. No, per questo durante la mia presidenza ho sempre scelto fra i miei collaboratori persone un poco meno intelligenti di me, un poco meno capaci, però brillanti. Sì, di modo che io non avrei mai sfigurato degli stupidi, direte voi. No. Non degli stupidi per niente, sono giusto. Io ho sempre avuto molto rispetto dei miei collaboratori, meno intelligenti, sì, però stupidi proprio, no, scusate. Perché non potevo certo permettere che i miei collaboratori passassero per stupidi, non potevo certo permettere che il popolo dicesse, guarda, il presidente si circonda di stupidi. No, i miei collaboratori non potevano essere stupidi, è un modo buono perché i miei collaboratori non passassero per stupidi, era che si circondassero a loro volta di persone un po' meno intelligenti, un po' meno capaci, però brillanti. Così svelai loro il mio trucco e il trucco funzionò. I miei collaboratori si circondarono a loro volta di persone un po' meno intelligenti, un po' meno capaci, però brillanti. E così facevano tutti. Se non fosse che i collaboratori dei miei collaboratori, nemmeno loro volevano passare per stupidi. E così dopo qualche tentennamento i miei collaboratori svelarono i loro corrispettivi collaboratori delle truppe del presidente. E fu così che anche i collaboratori dei miei collaboratori iniziarono a circondarsi di persone un po' meno intelligenti, un po' meno capaci, però brillanti. E allora volte i collaboratori e i loro collaboratori a loro volta così via. Tutti si servirono del vecchio trucco del presidente finché si giunse alla base della piramide. Collaboratori, eccetera, eccetera, all'ennesima potenza, che spesso erano dei perfetti deficienti, però dei deficienti molto brillanti. E questo strato più basso di collaboratori però aveva un problema, non disponendo a sua volta di collaboratori, non poteva circondarsi di persone meno intelligenti, meno capaci, eccetera, per fare bella figura, ma io che avevo già previsto questo problema, perché sono una persona brillante, quindi il problema l'avevo anche brillantemente risolto. Questo strato di collaboratori deficienti non sarebbe mai apparso come tale perché questi collaboratori si sarebbero circondati di gente del popolo e il popolo non avrebbe il coraggio di pensare che la persona che stava circondando era un perfetto deficiente, perché altrimenti il popolo stesso sarebbe passato per un deficiente all'ennesima potenza. Il popolo non vuole essere considerato un deficiente mai, in nessuna occasione. E io questo l'avevo imparato prima degli altri, perché forse non sono una persona intelligente, è vero, ma nemmeno stupida. Stupida proprio no. E così, durante la mia presidenza, tutti miravano con una circondarsi di persone un po' meno intelligenti, un po' meno capaci, e se erano più intelligenti e più capaci, non se ne circondavano, se ne liberavano brillantemente. In questo modo, cominciando dai miei collaboratori, scendendo fino alla base della piramide, diffusi nel paese il culto della mediocrità, in modo che il popolo diventasse giorno dopo giorno sempre un poco meno intelligente, un poco meno capace, però restasse sempre molto brillante, come il suo presidente. Così, ho è proprio perché vi dimentichiate di quel presidente di cui avete sempre sentito parlare, quel presidente che dicono ora non sapeva quello che stava accadendo in questo paese, quel presidente che dicono ora non sapeva quello che stava accadendo in questo paese, che cosa stava facendo in questo paese, dove stesse portando questo paese, una cosa assolutamente falsa. Perché io sapevo perfettamente quello che stava accadendo, cosa stava facendo e dove stava portando. Io sapevo perfettamente che lo stavo portando sull'orlo di una crisi. Su di me sono state dette tante cose non vere, ma anch'io, confesso, ho detto tante cose non vere, anch'io ho finto, mi sono lasciato prendere dal personaggio, ho finto di essere la persona che non ero. Sì, ho mentito, su certe cose ho mentito, questioni private soprattutto. A volte anche sulle pubbliche, ma molto meno, però ho dovuto farlo. È un compromesso a cui tutti i presidenti devono scendere, vabbè, quasi tutti. Ma ora che non sono più il presidente, ora che sono un ex presidente, ora che sono tornato ad essere un uomo del popolo, ora posso dirvi ciò che davvero pensavo, ora posso confessarvi la verità. Non ho mai creduto che la politica neoliberista che ha caratterizzato i miei governi avrebbe fatto il bene del paese. L'ho detto, tutto d'un fiato, ma lo sento molto meglio, perché non è semplice da dire tutto questo. Questa si chiama libertà d'espressione, per quello che ho detto. Non ho mai creduto che la politica neoliberista che ha caratterizzato il mio governo avrebbe fatto il bene del paese di quella di prima. Mai! Ci avrebbe reso tutti più ricchi. E men che meno ho mai creduto che l'indebitamento costante, tanto dello Stato come delle famiglie, fosse una buona soluzione al problema del deficit interno. Non ho mai creduto che lasciare tanta libertà alle banche sarebbe stato d'aiuto alla nostra economia. Non ho mai creduto che negli Stati Uniti ci fosse qualcuno come il nostro miglior alleato economico, né che fossero un alleato, né che il presidente Bush fosse un amico, perché non era un amico, ma domani ci concepiamo il presidente Bush. Come non ho mai creduto, contrariamente a quanto ho sempre detto, che il comunismo fosse il nostro peggior nemico. Anzi, io in realtà ho sempre pensato che fosse una buona soluzione al grande problema di questo secolo, che è per l'appunto quello di pensare al paese in termini di comunità e non come un insieme di singoli, perché il concetto stesso di comunismo, l'idea profonda che è insita nella parola comunismo, questa idea dell'essere parte di una comunità, del mettere in comune, della comunione, non è forse la grande idea cristiana dell'aiutare il prossimo, dell'amare il prossimo tuo come te stesso? E io, ve lo ricordo, sono profondamente cristiano. La grande utopia religiosa della comunione e la grande utopia filosofica del comunismo non sono in realtà la stessa grande utopia antropologica della comunità perfetta, in cui tutti vivono secondo le loro possibilità e hanno secondo le loro necessità? Per questo non ho mai pensato che il comunismo fosse il male, anche se è quello che ho ripetuto tante volte, così tante che il popolo poi mi ha preso sul serio e ci ha creduto anche lui. Ho detto quelle cose perché quelle sono le cose che il presidente di un paese come questo deve dire. Ho intrapreso quella politica perché era la politica che il presidente di un paese come questo deve intraprendere, anche se già allora io intuivo che il modello capitalista era destinato al fallimento, una cosa che oggi è evidente, perché è evidente che il capitalismo ha fallito. No, non fate quelle facce, sono io che vi parlo, sono proprio io, il vostro ex presidente che lo sta dicendo qui, in questo momento davanti a voi. Il capitalismo ha fallito. Thank you. sta bene, anche se forse oggi non possiamo più veramente dire che siamo un paese in crescita, forse oggi non possiamo più veramente dire di appartenere al primo mondo, vi assicuro che sta bene. È un paese in cui ci sono ancora supermercati dove fare la spesa, ospedali, distributori di benzina, concessionari di auto, negozi di elettrodomestici, ristoranti, cinema, penso, teatri, non in tutti i paesi esistono cose così, quindi smettetela di lamentarvi. Forse non sarà così evidente per voi qui presenti, ma vi assicuro che è molto evidente nel resto del mondo, dove la gente muore di fame nel senso più letterale del termine, che il capitalismo ha fallito. Beh, io tutto questo lo sapevo. Lo confesso, lo sapevo perfettamente. So cosa state pensando, lo state pensando. Se è davvero convinto di quello che ha appena detto, allora perché il presidente ha fatto quello che ha fatto? Assumere l'incarico di presidente comporta la rinuncia a molti aspetti della propria vita personale. Alle proprie idee, per esempio. Ho dovuto rinunciare. Ecco perché la mia politica di governo è stata così differente da quella che avevo promesso durante la campagna elettorale. La mia prima campagna elettorale. Ricordate, quella del nuovo che avanza, quella del movimento popolare progressista innovatore che avrebbe spazzato via un mondo e un modo di fare politica ormai vecchio e corrotto. La ricordate? No, ovviamente non ve la ricordate. No, quando ho assunto l'incarico di presidente ho rinunciato alle mie proprie idee per assumere le idee del presidente di un paese come questo. In un paese come questo, un presidente che deve, in un paese come questo, assumere il presidente che deve pensare come un presidente, non come il popolo, perché è vero che il presidente è un uomo del popolo, ma non è il popolo, è il presidente. Il presidente, quando diventa presidente, è proprio ciò che il popolo non è. Certo, deve occuparsi del popolo, ma ce l'ho già spiegato prima, questo non significa necessariamente occuparsi della popolazione. Al futuro, no? È un po' di elasticità mentale per una Madonna. Paolo, io sono la persona che può permettersi di promettere milioni di posti di lavoro. Per questo sono l'uomo giusto per voi. Questo intendevo. Non era una questione di posti di lavoro, era una questione di autorità morale. Che importa il posto di lavoro? Ma anche perché, diciamo sinceramente, a chi piace davvero lavorare? A me non nemmeno a voi, no? Credo che se ci alzi la mano quelli dei presenti qui, o ammettere sinceramente che è contento di svegliarsi alle 7 del mattino per andare a lavorare, ma c'è anche io con lei, io ti visto, perché sprecare il proprio tempo chiudendosi una tarda d'ora in luoghi piccoli e bui quando fuori c'è un mondo pieno di luci e di vita? Ma sarebbe così bella la vita senza dover lavorare. Perché l'ozio non è, come dice il detto, il padre dei vizi. L'ozio, come dice la Farad, è un diritto. Perché è questo che un buon presidente dovrebbe promettere al suo popolo. Non lavoro, ma tempo libero. La cosa più importante, il tempo per pensare. Il problema di questo paese non è la scarsità di lavoro, il problema di questo paese è la scarsità di tempo per pensare. Ecco, la vera crisi. Non quella finanziaria, quella non è crisi, quello è l'andamento del mercato. Il mercato è fatto così, sa, scende, sa, cioè, a volte salta di più, a volte più di meno, cioè, a volte scende rapidamente, a volte no, a volte sono finiscono, a volte le banche falliscono, a volte no, non è mica una novità, ma vi siete dimenticati anche di questo. Dai, su, sarà mica la prima volta che c'è una crisi economica in questo paese. Ma non avete studiato la storia? Agli investitori esteri, agli investitori di questo paese con il conto all'estero, prende tra le banche, per prendere un paese di tempo, ce ne vuole parecchio. Non è una cosa che si fa così in 448, che uno si sveglia la mattina e si accorge che gli hanno venduto il paese. No, non fui di un solo Roma per altri da dire. È un processo lento e laborioso, che richiede uno sforzo collettivo di tutti e tutti sapevano. Per favore non tiriamo fuori quella storia che manipolava l'informazione, perché primo l'informazione del paese la manipolano tutti, e secondo perché è vero, un po' l'informazione l'ho manipolata, però non in questo caso. Scusate, adesso ditemi che non era evidente che stavo vendendo il paese. Riforma delle liberalizzazioni, riforma della Costituzione, più autonomia all'iniziativa privata. Il popolo, mentre ripetevo tutto questo durante i miei discorsi, vacanza all'estero, no! E mica poteva restarci per anni in vacanza all'estero, questo popolo. Il popolo era qui, era a casa, davanti alla televisione, ad ascoltare quello che dicevo. Poteva sapere, se voleva, quando voleva, poteva sapere, perché questa è la democrazia. Poter sapere, no, non la garanzia, ma la possibilità di sapere, una possibilità che va coltivata, con fatica. Ha sempre fornito al popolo gli strumenti politici per decidere, per esempio, come e quando cambiare il presidente. Io non ero mica un presidente a vita, no? Non ero un re o un imperatore romano. Questa è democrazia, non monarchia. Il presidente non era obbligato a diventare presidente, non è nato da un presidente, né era il primo in linea di successione, non era cresciuto in una corte che l'ha educato a essere presidente. Il presidente è nato come uomo del popolo, semplice, umile, povero, come il nostro Signore Gesù Cristo. Il presidente ha imparato, come tutti gli uomini del popolo, a vivere. Prima dalla mamma, poi all'asilo, poi alle scuole elementari, alle medie. Anche il presidente ha fatto le medie, come tutto il popolo. Poi con le superiori, l'università, come un po' di gente. Il popolo, il presidente ha sempre vissuto come un uomo del popolo prima di essere presidente. No? Come un uomo del popolo, un po' ricco, forse, ma anche i ricchi sono uomini del popolo, perché questa è la democrazia, e noi siamo in democrazia. O no? Perché se non mi sbaglio, il presidente è stato eletto democraticamente dal popolo, scegliendo il suo nome sulla scheda, no? Nella cabina elettorale, segnando con una croce un po' più piccola di quella del nostro Signore Gesù Cristo, ma pur sempre una croce pesante che il popolo ha messo addosso al suo presidente. Presidente, e nessuno in questi anni è venuto da me e mi ha detto: vuoi che ti aiuti? No, nessun aiuto, solo critiche. Il popolo ti vota e poi ti critica. Sembra quello che si diverta a votarti apposta per criticare. Lancia un sasso e nasconde la manina del popolo. Dov'era il popolo quando il presidente aveva bisogno della sua manina? Primo perché io, come sapete, sono laureato in giurisprudenza. il secondo perché volevo parlare a voi personalmente e non per mezzo di altri, con il cuore in mano. È la verità, per questo sono qui oggi, per dire la verità davanti a voi che mi state ascoltando, perché siate voi a giudicarmi, voi giudici della corte, di questo tribunale. Confesso, avevo paura. Ogni uomo ha paura di essere giudicato, per questo ce ne sono così tanto a decidervi. Ho molta paura del vostro giudizio, del giudizio di questa corte, ma ho ancora più paura di un altro giudizio, il giudizio della storia, perché il popolo ha paura del giudizio del popolo, ma i presidenti hanno paura anche di quello della storia. Non crediate che non ci abbia pensato come mi giudicherà la storia, ci ho pensato tanto questi anni, perché alcuni presidenti passano alla storia come buoni e altri come cattivi, perché Cesare è passato alla storia come un personaggio positivo se in realtà era un golpista, despota, tiranno e antidemocratico, perché Carlo Magno è considerato un padre dell'Europa se massacrò migliaia di arabi in quanto all'unificazione del continente aveva lo stesso sogno segreto di Hitler, perché? Perché Napoleone viene ricordato come l'eroe che portava il vento della nuova libertà quando invece era un grande generale autoproclamatosi imperatore in un paese in cui 15 anni prima c'era stata una rivoluzione popolare antimonarchica? Ma che cosa pensava il popolo che viveva sotto Cesare, Carlo Magno, Napoleone? Era contento il popolo? Non lo so. La storia non ce lo dice. Ma quello che so però è che non li aveva nemmeno notati. Io, che sono stato eletto democraticamente dal popolo, sarò sempre ricordato dalla storia come un... non so. Ci ho pensato tanto in questi anni. Ho capito. Ho capito che la storia la fa il popolo, però la scrive chi ha il potere di scriverla. I vincitori. La storia non la scrive il popolo, anche se il popolo poi che la legge. No, è questo. È interessante, è per questo. E sono qui. Prima di rimettermi a giudizio della storia, vorrei cambiare la percezione che la storia ha di me e passare dalla parte dei vincitori. Non voglio che la storia mi ricordi come un presidente incapace, che ha pensato solo ai suoi interessi personali e ha portato il paese sull'orlo di una crisi. Non voglio che la storia mi ricordi come un... non lo so. Voglio che la storia mi ricordi come il primo presidente che confessa apertamente i suoi errori. Il primo presidente che si presenta davanti alla corte di un tribunale del popolo per essere giudicato. Però chiedo a voi, signori della corte, perché accettate di giudicarmi soltanto adesso? dicevano, senza chiedersi se quello che gli dicevano fosse vero oppure no, senza saper distinguere la realtà dalla finzione. No, come prima, quando ho raccontato la favola di Pedro all'inizio, che non è una favola di Fedro. Fedro non ha mai scritto una favola che si intitola Le scimmie chiedono un villaggio a Giove. Adesso quella favola non sono inventata, no? Perché in realtà inventato questo fatto, la gente poi non ride per niente, la gente crede a tutto quello che dicono, poi ride, non si fa nessuna domanda, la gente sta lì seduta a guardare, non c'è nulla in silenzio. Vorrei farvi notare che quella del silenzio del popolo non è mica una legge, è soltanto una pessima norma, anni di guerra e lotte per arrivare alla democrazia, tanta fatica, tanto sangue, una volta che è stata ottenuta la democrazia resta lì, non curata, e si riempie di erbacce. Nessuno ha mai detto che la democrazia sia la migliore forma di governo, la democrazia è il governo del popolo, punto. Ma se il popolo non impara a governare, la democrazia è la cosa peggiore che può capitare a un paese. E questa è la vera morale della favola. È logico dunque che a questo punto ci facciamo questa domanda. Non sono stato io per tutti questi anni al vostro servizio. Non sono forse stato io un dipendente pubblico che voi, il popolo, avete deciso che governasse? E io non ho forse assecondato legittimamente questo volere del popolo? Cazzo, mi sembra che fate la retorica dei gesuiti. Allora vi chiedo, sono forse colpevole io di aver fatto ciò che il popolo mi ha lasciato fare? Sono colpevole di aver agito secondo la libertà accordatami dal popolo? Sono colpevole? Sì. Sì, avete capito bene, ho detto sì. Perché io sono della corte, io mi dichiaro colpevole. Colpo di scena. So che molti hanno aspettato tanto questo momento, so che molti spesso hanno pensato come sarebbe bello se presidente un giorno dicesse davvero tutta la verità, come sarebbe bello se il presidente dichiarasse davvero sinceramente davanti alla corte del tribunale del popolo tutto quello che ha fatto durante la sua presidenza, tutto sinceramente, le cose buone, le cattive. Ma soprattutto quello cattivo, perché davanti alla corte di un tribunale non ha senso dichiarare quello buono. Allora, quante persone hanno sperato che arrivasse il momento in cui il presidente, con il cuore in mano, non avrebbe più avuto paura e avrebbe ammesso le sue colpe? So che nessuno in fondo si aspettava che questo momento sarebbe arrivato, vero? E invece è arrivato inaspettato, no? Bello, come tutte le cose inaspettate. Proteggere colpa. No, non mi sto giustificando, non mi sto liberando dalla mia responsabilità, non sto dicendo che la colpa è di qualcun altro questa volta, anche se ciò renderebbe tutto molto più semplice. No, solo che non è per questo, come dicevo, che sono qui oggi a dichiararmi colpevole. Io sono qui per dichiararmi colpevole di una colpa per la quale nessun capo di imputazione è stato formulato contro di me, anche se è stata colpa mia più grande che ho commesso durante la mia presidenza. E questa colpa è stata quella di lasciare che il popolo non si rendesse conto della mia colpa, perché un presidente è responsabile del suo popolo forse ancora di più di quanto lo sia il popolo del suo presidente, perché il presidente è un primus inter pares, si ha la responsabilità non solo della prima ma anche dell'ultima parola. Il popolo aveva la responsabilità di non votarmi e io avevo la responsabilità di svegliare il popolo e non l'ho fatto, lo ammetto, è mia la colpa, non ho svegliato il popolo, ho lasciato che la sua coscienza continuasse a dormire, che il popolo continuasse a dormire con gli occhi ben chiusi mentre il paese avanzava verso l'orlo di una crisi. Ecco perché questa confessione, che è una dichiarazione di colpa, è il mio ultimo atto politico, forse il più vero, auspicabilmente, perché auspico che voi, signori della Corte, nel momento in cui dovrete giudicare me come presidente responsabile del popolo, del nostro amato popolo, il popolo argentino, sappiate agire con giustizia e che questo giudizio possa infine servire per il bene di tutti, affinché fra 10 anni non vi ritroviate con un altro ex presidente che da questo stesso banco 10 anni dopo vi dica le stesse cose che vi sto dicendo io in questo momento. Io, Carlos Saúl Menem. E per evitare che questo accada necessaria l'attenzione di tutti, non solo di una parte della popolazione, ma di tutto il popolo. E soprattutto auspico che questo giudizio possa servire da esempio e che sia preso, come spesso succede, come caso esemplare per altri giudizi. Non solo qui ma anche in altri paesi, perché non solo il nostro popolo, ma ogni popolo di ogni nazione, di ogni tempo sappia finalmente chiudere gli occhi